Buongiorno, sono confuso, confuso, confuso. Mi dovete perdonare. Lavoro nel mondo dell'informazione, tutto il giorno vivo con le notizie che circolano e ho perso il filo. Qualche volta mi succede. Questa rubrica è una rubrica affermativa. Di solito dico la mia, do un giudizio su quello che mi sembra il caso del giorno e poi su quello stesso caso o su un altro caso ho degli ospiti e proseguo in questa investigazione. Bene, adesso ho perso il filo perché seguendo i giornali e seguendo l'informazione onestamente non mi raccapezzo più. Allora ho una fortuna enorme, anche oggi avevo chiamato un ospite e l'avevo chiamato sull'attualità. Il mio ospite è una persona che insomma conosco da tanti anni, stimo, è una persona che ha le sue idee. Qualche volta non le condivido, qualche volta ci sto a pensare, dico ma che sta dicendo? È stato ieri il caso, una delle sue dichiarazioni in un colonnino del Corriere della Sera mi hanno fatto sobbalzare, però ho detto però, insomma comunque è una linea di pensiero originale. Queste cose non mi confondono, non mi confondono. Ve lo presento subito, è uno psichiatra, il professor Massimo Fagioli. A me le cose originali non mi confondono, anzi mi fanno divertire, mi rassicurano, dico il mondo va avanti. Pensi, professore, che per rassicurarmi ieri sera sono andato a vedere i Rolling Stones perché ho detto quelli c'erano quando ero ragazzo, ci sono ancora, sono sempre lì e io sono tornato a casa con una certezza, quelli ci sono, il foro stava lì, i palazzi del Palatino stavano lì, i Rolling Stones stavano lì. Allora io adesso le propongo una cosa, professore, io le chiedo della politica tutto quello che lei vuole dire, che ha già detto e un po' la pizzico anche su quelle cose che ha detto sulle scissioni della sinistra, sul futuro della sinistra, sa che mi interessa molto quello che pensa e anche quello che ho letto ieri sul Corriere. Però prima, nel prologo, io mi sottopongo un attimo alla sua ricognizione e questo è il suo mestiere. Mi può investigare. Le dico gli elementi di confusione uno per volta e lei mi dice la sua. Primo elemento, leggo i giornali, scopro che secondo i giornali e anche l'informazione sui telegiornali si sta facendo una finta riforma del Senato sostanzialmente per reintrodurre l'immunità parlamentare. Io ho studiato, l'immunità parlamentare non è un'idea peregrina che è venuta ai ladri. L'immunità parlamentare è stata introdotta nell'articolo 68 della Costituzione dai padri costituenti per garanzia della separazione dei due poteri, il potere del Parlamento legislativo e il potere della magistratura, quindi è il potere giudiziario che è autonomo. L'hanno introdotta, a un certo punto è stata modificata sull'onda di Mani Pulite, lei si ricorderà, e non c'è più per nessuno l'immunità parlamentare come era nella Costituzione. C'è il fatto che un magistrato per indagare un eletto, un parlamentare eletto, deve chiedere l'autorizzazione al Parlamento, a una commissione che gliela dà. Questo vale per tutti, oggi, senatori e deputati. Stanno facendo un nuovo Senato, è evidente che per equilibrio e per bilanciamento, dice il Governo, il nuovo Senato, per quanto non eletto direttamente dal popolo, ma è elezione di terzo grado, dovrà avere questo stesso requisito, che non è la vecchia immunità. A leggere i giornali sembra che la reintroducano per tutti, c'è addirittura una vignetta sul Corriere della Sera, democrazia renziana, poi perché renziana, immunitas al posto dello scudo crociato. Può darsi che è un'interpretazione, io lo capisco, è un giudizio loro, il mio è diverso, però mi sono confuso in questo. Lei che cosa mi può dire su questo un suo pensiero? E anche capire se sono pazzo io, però me lo dica, perché questo ci tengo. Innanzitutto buongiorno. Buongiorno professor Fagioli, Massimo Fagioli. Grazie di avermi invitato per poter dire qualcosa di mio. E vorrei approfittare subito di ringraziare Andrea Garibaldi sul Corriere della Sera che tu hai citato, perché mi pare proprio che è un discorso, un trafiletto, anche se purtroppo breve, di assoluta sincerità e onestà. Esatto. Perché si contrappone immediatamente a questa strana storia del Fatto Quotidiano che mi sta attaccando, insultando dall'anno scorso, da ottobre, quando io ho mai visto eccetera, con diffamazioni, con bugie, menzogne, non considerando eccetera, per cui io sarei quello che attacca l'omosessuale, quando in verità chi ha insultato nella maniera più feroce è stato Vendola a gennaio del 9, a gennaio del 9, dopo che c'era stata la scissione, perché io non condividevo la scelta di un catto comunista alla leader di questo che era il tentativo di rinnovare la sinistra. Certo. Il discorso grosso, al di là dell'immunità parlamentare, scusami, chiedo umilmente perdono. No, quello riguarda me e gliene parlo dopo. Parliamo del ma suo. Ma appunto, credo che questo tempo sarebbe per affrontare invece questo marasma di confusione che c'è a sinistra. Ah. E il marasma di confusione che c'è a sinistra, mettiamolo, che c'è da la Rivoluzione Francese. Per tutto l'Ottocento, eccetera, eccetera, col socialismo che va... che dal comunismo all'anarchia, eccetera, eccetera. E quindi questo problema, eccetera, voler affrontare un discorso di questo genere, io ho pensato bene di affrontarlo pensando alla realtà umana. Ecco perché questa unica mentalità che vogliono fare da Bertinotti, Vendola, ma tutto noi lo stesso Renzi, un cristianesimo di sinistra è la cosa più orrenda che possa esistere. Perché? Perché? Qui abbiamo un Papa che, come ti ho detto altre volte, sì, le altre volte, che fa discorsi nazisti. Com'è? I bambini non sono tutti uguali. I bambini ci sono, i bambini battezzati non sono gli stessi dei bambini non battezzati. L'evasore fiscale andrà in galera, d'accordo, ma no, va buttato in mezzo al mare come faceva Videla in Argentina, la dittatura fascista. C'ha delle uscite orrende, adesso pure scomunica, ma ha scomunicato un sacco di teologi, aspetti, le chiedo precisamente perché un altro elemento di confusione questa mattina è sulla scomunica dei mafiosi. Ho pensato, ma ai mafiosi Vito gli importerà Mancuso, qualcosa che li scomunica? E poi ho pensato un'altra cosa. Più che i mafiosi, sta scomunicando quei preti che sul territorio poi gli danno i sacramenti. Perché se ci sono mafiosi che hanno avuto... Dica di la sua. Cercare, eccetera. Figuriamoci, noi stiamo facendo con Della Pergola un discorso enorme su Carlo Enzo, un monaco isolato, eccetera, perché si era permesso di avere una lettura, uno studio della Bibbia diverso da quello classico, eccetera, eccetera. C'è tutto un orientamento, ma c'è anche la cultura, per cui la sinistra sarebbe questa misericordia del Papa, questo strano amore cristiano che consiste soltanto nell'elemosina. A Rai 3, il 2, è venuto fuori una bella fanciulla che ha parlato e ha detto che alle persone disgraziate e diseredate, in particolare agli immigrati, non va fatta l'elemosina. Cioè, va fatta l'elemosina, ma va data un'identità uguale agli altri. Ora, sarò vanitoso, sarò superbo, ma io ho pensato sempre, non si fa una sinistra finché non si scopre la verità della realtà umana, che la nascita è uguale per tutti. Questo nel cristianesimo non c'è. Sia non c'è per quello che ho detto prima, eccetera, perché per loro si diventa uomini col battesimo, e ci sono miliardi di persone che non sono battezzati, e no, perché anche dice che la vita comincia con lo zigote. Ora, se l'identità umana è quella biologica, allora questo è il razzismo. Perché allora significa che gli altri, biondi, con gli occhi azzurri, forti, che fanno palestrati, come si suol dire, sono diversi da quello ebreo, un po' moro, un po' con la pelle abbronzata, eccetera, eccetera, che va, come dice Travaglio, eliminato. Però, chiaro? Ecco, però questo è un po' un paradosso. Totale. Lei sta facendo un po' un paradosso, perché poi la Chiesa riequilibra questo suo punto che ha centrato sulla differenza tra un cristiano e un non cristiano, e in realtà poi predica anche un ecumenismo verso i non cristiani, cioè predica dei sentimenti, dei valori anche verso i non cristiani, no? Sì, ho capito, ma questa carità cristiana non mi dice niente, a me interessa l'identità. Se viene negata l'identità umana a un altro, questa è la violenza maggiore simile o addirittura peggio al sadismo che lo ammazza, perché fabbrica malati di mente, è una negazione di questo genere. Quindi a me lei sta dando questa spiegazione, tu sei confuso perché sei al centro di due confusioni, uno il catto comunismo, come l'ha chiamato lei, come poi certo. viene chiamato, ti ha creato una confusione sulla sinistra e certo. anche una confusione sull'identità cristiana. Ma è quello che hai detto tu, quello perché nella Chiesa cattolica e quindi corrispondentemente in questa cultura di cristianesimo di sinistra o di catto comunismo, come si suol dire, ci sono, si dice una cosa e se ne dice un'altra. Si dice eccetera e poi invece è un'altra. C'è una, per cui non c'è una verità. Noi sì. abbiamo una storia che non si dice, ma ognuno è libero di credere quello che vuole. Ma insomma, se vogliamo fare qualche cosa di sinistra, se vogliamo portare il discorso all'emancipazione umana, bisogna prima categoricamente trovare l'uguaglianza. Secondo, bisogna trovare il discorso della soddisfazione dei bisogni uguali per tutti. Il corpo deve funzionare. Ed è uguale per tutti, non c'è poltrona di Berlusconi e poltrona dell'immigrato, perché non ci sono natiche di Berlusconi diverse, sono tutti uguali. Fatta la soddisfazione dei bisogni con l'alimentazione, il calore, la medicina, per cui il corpo non deve più soffrire, c'è la libertà assoluta delle esigenze, per cui uno è libero di fare quello che vuole, il musicista, il medico, il poeta, eccetera, eccetera. Deve rispettare soltanto i tre codici penali. Senta, non c'è penale, anche civile e della strada. Poi il resto è liberissimo di fare tutto quello che vuole. Penale, civile, e rendersi diverso. Ma per rendersi diverso, ecco, bisogna che prima si scopra questa grande svolta della vita umana. Per cui dall'uguaglianza della nascita e anche del primo anno di vita, anche se non è esatto, ma insomma, perché il rapporto con la madre può essere diverso, si scopre che esistono invece esseri umani uguali che non sono uguali, sono donne per noi, sono uomini per noi, ragazzini per le donne. E lì bisogna scoprire, mettendo tra parentesi Aristotele, che non dice che il principio di non contraddizione, perché c'è una contraddizione, sono uguali ma sono diversi. Però, e allora è importante, è importantissimo rapportarsi come fondamento. Però, professore, è un essere umano diverso. In questa... Perché dopo diverso è l'immigrato, diverso è chi ha la pelle nera, certo. diverso è c'è certo. qualcuno che non ci si rapporta certo. al diverso. Però, professore, in questa confusione che lei ha chiarito dal suo punto di vista, non ci mette una buona dose di suo anche l'informazione sbagliata che enfatizza certe cose? Le lo chiedo Liguri, perché guardi, lei ha detto, no, le faccio l'esempio, bravissimo, le faccio ma l'esempio se tu così, adesso mi guardi, permetti aspetti, di fare la Bertuccia birmana da esperimento, questo sta succedendo dopo 50 anni. No, aspetti professore, voglio fare un esempio, voglio fare un esempio per i telespettatori, che allora il professor Fagioli ha detto la sua su Vendola. L'informazione si è divisa, c'è stato chi ha riportato quello che ha detto, lo diceva prima Garibaldi, e c'è stato chi ha detto, ora il discorso del professor Fagioli può essere attaccato benissimo dalla stampa cristiana cattolica, è un discorso differente dall'impostazione cattolica, ma non l'hanno attaccato quelli per l'impostazione cattolica, l'hanno attaccato perché hanno detto ce l'ha con Vendola perché è omosessuale, e invece il professor Fagioli aveva detto ce l'ho con Vendola perché non è comunista ma non sta facendo una politica di rinnovamento comunista ma catto comunista. Quindi le chiedo, questa confusione che viene alimentata è perché sono confusi anche i giornali, i mezzi perché di informazione, o è artificiale? Perché abbiamo cominciato dicendo di questo strano fenomeno per cui dopo 50 anni di lavoro, dopo che era venuto Scalfari con Repubblica ad insultare e criminalizzare, plagiatore, guru, non guru, truffatore, eccetera. Dopo che per decenni, e io ho continuato in pertenere, se ne viene fuori il Fatto Quotidiano che ricomincia con questa storia. Ma assolutamente fuori dal mondo, è assurda, perché viene uno sconosciuto minimamente onesto, che è Andrea Garibaldi, che dice le cose come stanno. E come succede questo fenomeno, appunto? Certo, l'informazione, c'è una parte di giornalisti un qualche giornalista che non è onesto, che è un disonesto, che dice le bugie sapendo di mentire. Ecco, adesso che si fa? C'è qualcuno che li querela, eccetera, eccetera, no, però beh, la storia va a lungo. Per fortuna m'hai chiamato tu, per fortuna sì, c'è ma per anche chiarire, a me piace. Huffington perché... Post, c'è anche Formiche, ci sta anche Patrignani, ci sta... che dicono, ma che diavolo è? L'assurdità di mentire completamente. La storia di Vendola che si deve curare, l'ho smentito. La Repubblica ha chiesto scusa perché non era vero. Io non l'avevo mai detto. Fu un redattore che si mise questo grosso titolo e se l'ho preso. Quindi ce l'ha con gli omosessuali. A me gli omosessuali non me ne frega assolutamente niente. Ognuno sceglie la sua storia. La sessualità è una fantasmagoria di cose. Ci sono i sadomasochisti, ci sono i perversi, ci sono i masturbatori, ci sono gli omosessuali, ci sono eccetera. Ma ognuno fa... Se qualcuno ci sta bene, ma non c'è problema. Da me non ci viene, con me non ci parla. Io ho scelto quella strada, io tanto di cappello. Io guardo se è una brava persona, se è onesta, eccetera. Non se è omosessuale. Anzi, sul io non Corriere, vado a chiedere alle persone quante masturbazioni si fa alla settimana. Anzi, sul Corriere con Garibaldi, lei ha detto pure delle cose precise di politica. Ha detto a me anche di questa scissione di sé, non importa, io non guardo, sono accomunati da questa politica. Canto comunista, piuttosto l'unico serio mi sembra Civati, che ha tenuto dentro il PD sempre una posizione di ricostruzione di certi valori. È vero che ha detto così? Lo conferma, sì, lo spiega. Sì, e lo confermo e ci metterei accanto Ilaria Bonaccorsi, quella che fu la fondatrice di Left, che mi permise dopo tanti anni di riscrivere, e ormai sono 8 anni e mezzo, e quindi c'è questa in cui si interessano della realtà umana, perché della realtà umana non se ne occupa nessuno. Appunto, tutti danno per scontato che bisogna risolvere il problema dell'immunità parlamentare. Bisogna gli 80 euro, eccetera, ma insomma, adesso poi ci siamo. Questi sono discorsi isolati di quello che ammazza moglie e due bambine. Sono discorsi isolati di quello che, se è vero, questa storia di Bossetti, eccetera, che ammazza l'adolescente. Sì, lei che idea si è fatta o quell'immigrato che è andato in giro col piccolo uccello. Lei come valuta la pazzia, questi delitti? Esiste o non esiste? Lei come li valuta questi delitti? Professore, che è molto attento anche alle mutazioni, alle cose che succedono nell'animo, nell'emotività delle persone, nelle persone sostanzialmente. Come li valuta questi delitti che vengono da così vicino a noi, da persone comuni, normali, che uno dice, ma è la normale? Perché? Ma perché? Uno, c'è tutta una storia di 100 anni quasi, eccetera, tra Foucault e non Foucault, che trae le sue idee da Heidegger e da Biswanger, per cui la malattia mentale non esiste. Pensiero, quello che chiamano inconscio, che è pensiero senza coscienza, quello della notte, quello dei sogni, è natura umana ed è pazzia, animalità, bestialità, ferocia. Chiaro? Finché c'è questo che viene sostenuto ben da Scalfari sul Repubblica, per cui occorre la ragione ferrea che domina questa bestia che abbiamo dentro di noi, e poi chiaramente succede, la gente dice, ma sarebbe normale, per far passare la parola che questi sono dei pazzi criminali, no, sono esistenzialisti. Un dall'acqua basagliano ha sostenuto che Breivik, che nell'11 mi pare ha ammazzato 70 ragazzi senza nessun motivo, è una proposizione politica. Un pazzo lucido scatenato, uno schizofrenico lucido, come ci raccontava Hitchcock. No, è una proposizione politica. Finché c'è questa cultura nei giornali, è in generale questa. Si nega la follia. Per cui io no? Che dico no, qui c'è la schizofrenia, si nega qui la c'è follia. La pazzia. Si nega... Qui bisogna affrontare la malattia mentale, perché la malattia mentale è distruzione, sarei una specie di guru, di fascista. Sì, sì, mi hanno detto anche questo. Nazista. Nazista. Mi hanno detto nazista. Semplicemente appunto. Lei riconosce l'esistenza della follia, della pazzia lucida. E se c'è, E come? Ma purtroppo qui siamo solo al disturbo bipolare. Schizofrenia, psicosi manico-depressiva, nevrosi varie, non esistono più. C'è solo il disturbo bipolare. Cioè, una mattina io mi alzo arrabbiato, una mattina mi alzo contento, tutta la psichiatria e la studio sulla realtà umana si è ridotta a questo. Grazie a una certa... ha una certa mentalità che direi purtroppo di origine americana. Ma è di origine americana? Col DSM 4, 5, 6, vai. Sì, ma è di origine americana questa mentalità nella psichiatria? Se c'è il DSM, questo DSM dal 52-53, sì, in cui ha abolito, sta abolendo tutte quelle nosografie che avevano fatto Kraepelin, Bleuler, eccetera. Ma soprattutto proprio, io direi... quella di Kraepelin è superata, ma Bleuler con il discorso della schizofasia, con il discorso che in un certo momento c'è una verbigerazione, cioè una lucida dissociazione di parole per cui si mette insieme cose che non stanno insieme, parlando. Lui la scoprì e la chiamò schizofasia, verbigerazione. Quella è stata abolita, non esiste. E quando poi in forma più o meno latente la troviamo in certi giornali, in certi romanzi, in certe cose, sì, che vengono dette cose che non hanno nessun senso, mentre c'è il discorso di prendere un linguaggio e lì c'è tutto il discorso sul linguaggio nuovo, perché ecco, qui devo rivendicare tutto un lavoro ormai di 50 anni che abolito la storia, che questo pensiero senza coscienza, che la storia dei sogni sia inconoscibile. Il Dasein-Bewusst tedesco, fondato da Schellinger nel 1800, Dasein-Bewusst. Per cui non ci se ne deve occupare, e non solo non ci se ne deve occupare, ma è una cosa per cui la ragione non se ne può, quindi va lasciato, perché hanno fatto la fusione tra pensiero latente senza coscienza e spiritualità. Per cui se ne deve occupare la Chiesa. Se ne deve e occupare? La Chiesa ti parla del peccato originale, eh. E la Chiesa ti parla di un'immacolata concezione nata senza peccato originale. Beh, sono dei dogmi della Chiesa. Ti ha portato, porta un ideale di realtà, di ammirazione, di perseguire un'idealizzazione di un essere umano che sarebbe nato dallo spirito assoluto, perché senza peccato originale. E come si fa a fare la sinistra con queste idee? Non è tanto la questione, direi, dell'immunità parlamentare, è questa la questione, per cui a sinistra anche la gente di più buona volontà che ha motivo di rinnovamento eccetera eccetera di fare le cose bene, una laicità che si riprenda questa laicità, per cui se uno vuole essere religioso, credere in queste favole, ci creda, liberissimo, chi gli dice niente. Però che le imponga come cultura generale, cioè questo è chiaro, no, che questa è la verità. Professore, io per la cui seguo. L'antropologia sta nelle scritture sacre, dei testi, Bibbia, eccetera, quando è dimostrato che la Bibbia è una sequela di balle, di cose false, che non dura, non è da 5.000 anni, ma da 500 prima di Cristo, da 2.500, ed è tutto montato perché non è mai esistito nessun Mosè, non esisteva nessun cammello, non esisteva eccetera eccetera. Chiaro? Guardi professore, io il suo ragionamento lo seguo, lo capisco. Però ottimo, grazie. No, lo capisco, è il suo pensiero, lei lo dice in maniera netta. Quello che però forse è successo anche è che nella ricerca del comunismo sono state compiute talmente tante cose sbagliate, feroci, certamente estreme, sì, che in realtà questo riflusso... Perché il comunismo non si è occupato di questo terzo di vita che è il pensiero senza coscienza. Per lui, per il comunismo, è il massimo della razionalità, per cui in certi casi è diventato ancora più violento del cristianesimo e della Chiesa cattolica, certo, perché, tanta perché gente... in ogni modo la Chiesa cattolica ammette la stregoneria, certo, ammette le cose eccetera, il Comunismo no, è solo razionalità, è realtà materiale, rapporto con la realtà materiale. E tanta gente questo si è rifugiata appunto nel pensiero della Chiesa e nel pensiero religioso per sfuggire all'orrore della razionalità assoluta, quello che ha chiamato lei, perché poi è un orrore quello della razionalità assoluta, penso che lei sarà d'accordo, no? Esattissimo, però allora, non si può, come dire, combattere, eccetera, con la negazione, certo. Diventando religiosi, non si può combattere questo materialismo, positivismo con la cosa. Bisogna scoprire un'intelligenza che riesca a leggere e che non creda all'inconoscibile. Certo, i sogni ci sono. E queste comunicazioni di questo mondo strano, che è stato forse solo possesso degli artisti, di Shakespeare, certo, eccetera, eccetera, si può conoscere, si può portare al linguaggio verbale. Non capisco perché a questo punto questo tabù, che non ci sia riuscito nessuno, eccetera. Chiaro? Sì. Che lì ci sono state tutte fantasticherie religiose, per cui i sogni sono mandati dagli dèi, lo dice anche Agostino di Ippona, oltre a dirlo la mitologia greca con Apollo, eccetera, sì, tutta la letteratura del Logos occidentale, tutto il discorso. Ma anche nella Bibbia non si capiva da dove veniva. I sogni di Giacobbe, eccetera. Senta, no, io mi fermo, mi devo fermare. Una mentalità che possa dire perché non si dovrebbero conoscere. Senta, professore, io mi devo fermare, ma questa conversazione sicuro la riprenderemo, io la ringrazio. Adesso non le chiedo nemmeno. Ma io ringrazio te, hai permesso di dire. Facciamo circolare il pensiero, c'era, facciamo circolare le idee, facciamo sentire l'originale senza contraffazione. E questo è il nostro compito. E poi qualche elemento per uscire dalla confusione me l'ha dato pure a me stamattina. Vede che poi è stato grazie, utile. Non grazie, le chiedo neanche per sogno che cosa pensa dei fuoriusciti di Sel che si vanno a cercare il lavoro da Renzi, perché lei mi ride in faccia e ha già fatto un gesto molto eloquente. Quindi lasciamo stare, Libero l'ha definiti gli scilipoti di sinistra. Ma forse la cosa più simpatica è Civati. Adesso cosa farà migliore? Cosa farà migliore? Gli altri? Barca, non barca? Tutti questi movimenti. Che faranno? Lei l'ha già chiarito che non potranno fare nulla di buono se non ritrovano un centro. Insomma, un esattissimo. Benissimo. Esattissimo. Abbiamo sentito un il pensiero. Spero che Civati e Ilaria Buonaccorsi abbiano afferrato. E io la seguirò in questo percorso, cercherò di sentire anche loro. Grazie al professore Massimo Fagioli, ha detto la sua, sulla sinistra, a chi ci sta a sentire. Ma il suo pensiero è analogo, è equivalente, identico a tanti altri che danno ancora meno spiegazioni e che ci confondono tutti i giorni. Grazie, Fatemi Sfatti finisce qua per oggi, domani torno all'una, vi lascio le notizie di TG.com, sono meno confuso. Fincantieri si quota in borsa.